I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Today, Alitalia continues this great Italian tradition with a huge fleet of the most advanced aircraft, with flights to over 105 cities in 55 countries, including some Columbus never dreamed of. Alitalia, carrying on a tradition of travel that started when the world was flat. E allora, quello che abbiamo sentito è un po' inquietante, no? Perché la base musicale l'avrete riconosciuta, ormai si è messa, almeno a livello di cultura popolare, in connessione con Arancia Meccanica, ed è un patto che difficilmente potrà essere mai sciolto. Comunque era uno spot dei bei tempi in cui all'Italia, come diceva il signore, lo speaker che presentava, era pronta a sbarcare in tante di quelle tratte che nemmeno ve le potete immaginare, e soprattutto Cristoforo Colombo sicuramente non se le poteva immaginare. Adesso, come sapete, con un weekend che ha portato una stabilizzazione, sembra, almeno ce ne stiamo convincendo tutti, della situazione di una compagnia aerea di bandiera, si ricomincia a parlare per l'appunto di tratte, ed è venuto alla luce questo progetto Fenice, una specie di manifesto, insomma, della CAI, della compagnia aerea italiana, in cui ci sono tante cose che riguardano noi, intesi come passeggeri, come futuri utenti di questi aeroplani. E una delle cose che ci ha interessato riguarda per l'appunto le tratte, ad esempio le tratte intercontinentali, che veniamo a sapere che saranno 18, di cui 5 nuove, e tra le 5 nuove spuntano per l'appunto quei nomi di Pechino e Shanghai che erano stati a suo tempo cancellati dalle politiche gestionali di Alitalia. Adesso riaffiorano addirittura in compagnia anche di Seul. Sono quindi 18 al cospetto delle 16 servite da Alitalia le tratte intercontinentali su cui la CAI si propone di fare servizio, 64 quelle internazionali che copriranno 41 destinazioni, e poi c'è tutta da scoprire naturalmente la partnership internazionale che verrà scelta da questa compagnia. Ma noi per adesso ci fermiamo qua, perché vogliamo riaprire a questo punto il discorso con un paio di interlocutori che, per motivi con approcci diversi sull'argomento, hanno comunque delle cose da dire. Il primo è il nostro più consueto interlocutore per quello che riguarda la Cina, ovvero Saro Capozzoli, un amico, un italiano che vive in Cina, un operatore economico di consulenza soprattutto per le compagnie italiane che vanno a lavorare in Cina, e quindi, poi scendendo un po' di qualità del discorso, una persona che fa su e giù su queste tratte aeree. Buonasera Saro, come stai? Sì, buonasera. Dunque, io a te vorrei chiedere prima di tutto una cosa molto semplice, veramente da utente, però anche un po' da veterano, se me la passi. Se tu dovessi dare a questo punto delle notizie, di cui sicuramente sarai al corrente, relative alla nascita di questa nuova compagnia di bandiera, se tu dovessi dare delle indicazioni, dei consigli, qualche dritta, magari qualche così, qualcosa che viene dal know-how di viaggiatore di lungo corso, che cosa ti verrebbe da dire, da suggerire? Ma ci sarebbero tante cose da dire, anche perché io sono su questo un attento osservatore, sono un appassionato di aeroplani, di aeroporti, anche perché io faccio qualcosa come 130 voli all'anno, ovviamente la maggior parte in Cina, no? Però quindi vivo gran parte del mio tempo anche negli aeroporti, no? Certo. E sugli aerei. Prima di tutto si dovrebbe rendere l'operazione economica, perché tutto ciò che ha fatto finora l'Italia in Cina non aveva alcun senso, no? Mm-hmm. Il fatto, partendo dall'ufficio, un ufficio di rappresentanza operativo in uno dei palazzi più costosi di Shanghai, per esempio. Questo è un esempio, dove c'è ad esempio lì, c'è la Camera di Commercio, il Consolato. Questo è un qualcosa che è antieconomico al massimo, no? Certo. E poi dopo prevedere almeno voli quotidiani, perché fare come ha fatto finora, due o tre voli a settimana, non rende la tratta appetibile ed economica, no? Certo. E questo è quanto diciamo è successo finora, tant'è vero che la tendenza è di moltiplicare le tratte, cioè praticamente i voli, i giornalieri, in modo da mantenere, da abbassare i costi diciamo fissi relativi allo scalo, relativi a tutto ciò che è la logistica locale, quindi con aerei anche capaci. Finora tu stai dicendo in sostanza alleggerire, acquisire dinamismo, ma soprattutto volare. Volare, sì, infatti. Noi abbiamo una Lufthansa che vola anche su a città anche di secondo livello, come Nanchino, come Shenyang, ma su Pechino, cioè, su Shanghai abbiamo il volo la mattina, il pomeriggio e la sera, addirittura c'è due voli la notte, alle 11.30 che va a Francoforte, alle 1.30 di notte che va a Monaco. Cioè ci sono quindi una scelta, e sono sempre pieni, cioè non è un problema di capienza, cioè che non ci sono, anzi, cioè, le aeree hanno problemi a riempirli, cioè a trovare spazi e hub, cioè, e slot, praticamente, come certo, si chiamano, certo, ecco. Certo. Quindi l'errore che è stato fatto finora è stato quello di viaggiare con un aereo sbagliato, il 767, che ha 190 posti e già anche riempendolo non andava a coprire, con quei tre voli che faceva a settimana, andava a coprire i costi di gestione di questo grande ufficio, molto rappresentativo, molto costoso e così via. E con gli equipaggi che stavano due giorni a riposo nei grandi alberghi di Shanghai, eccetera. Quindi un'ottimizzazione sarebbe auspicabile, tipo per dire la Finnair ha iniziato anch'essa con un piccolo aereo come il 767, ma poi dopo alcuni mesi di rodaggio è passata al 777 e sono passati hanno quindi raggiunto il break-even in questa maniera. Le linee aeree che ci sono il 747, gli aerei che viaggiano sulla Cina, il 767 o gli Airbus 340. Quindi per esempio in questo progetto Fenice, di cui forse avrei letto qualcosa in giro, c'è anche un ragionamento che riguarda un rinnovo della flotta. Tu daresti indicazioni anche in questo senso, occhio a dove andate e ragionate la flotta su quella base. Certo, bisogna fare, come si dice, un semplice business plan, capire quanti sono i costi, quanti imposti bisogna occupare per coprire i costi, come cosa non è mai stata fatta finora. Era una linea aerea che poi qualche aspetto potrà smentire, ma comunque da quello che ho sentito, ma che ho letto, io sono come tutti voi, legge molto su e sono molto attento su queste cose, perdeva l'anno scorso 30 milioni di euro solo, certo, in Cina, certo, per questo è stata tagliata, ma ovviamente sono state fatte scelte che non avevano mai permesso di portarla pur viaggiando al 100% punti di occupazione dei posti in pareggio. Quindi io mi auspico che i nuovi dirigenti facciano questi conti, semplici conti, tenendo conto che le linee intercontinentali hanno bisogno di linee, di aerei capaci, e addirittura adesso stanno tutti aspettando anche l'arrivo dei grandi aerei e 380 che l'Air China li ha ordinati diversi, che addirittura li riempiranno fino a quasi 800 posti, certo. Quindi e sono tutti riempiti, cioè io viaggio in Cina o su e giù per la Cina, io normalmente uso altre linee ovviamente perché non c'è del nord Europa, non, certo, faccio nomi, e ho avuto difficoltà a trovare posti perché, certo, sono sempre pieni, quindi non è un problema di mercato, è un problema di strategia e di gestione. C'è qualche eco in Cina della, insomma, del riuscito, diciamo così, passaggio di consegne dall'Italia a CAI? Se ne sa qualcosa, se ne parla, c'è qualche commento, c'è qualche reazione o si aspetta semplicemente di vedere se questi aerei arriveranno mai da quelle parti? Assolutamente non c'è, io non ho trovato nulla, non c'è, è passata semplicemente inosservata questa cosa, almeno io poi per quello che sono uscito appunto in questi giorni a vedere non ho avuto nessun riferimento sulla stampa cinese, ma che noi normalmente non fa rumore ciò che succede in Italia, a parte qualche scandalo. Saro, resta con noi perché abbiamo in linea anche Gianni Dragoni, giornalista del Sole 24 Ore, che si occupa fra gli altri temi spesso e volentieri di Alitalia, naturalmente ha seguito tutta la vicenda negli ultimi giorni con i suoi articoli sul quotidiano. Vogliamo chiedere anche a Gianni, innanzitutto buon pomeriggio Gianni. Buon pomeriggio a voi. Grazie, grazie alla disponibilità. Un parere anche da parte tua su questa riapertura, no? In questo progetto Fenice appaiono fra i vari discorsi, questi discorsi sulle rotte, sulle tratte, si riaprono delle tratte che erano state considerate talmente rischiose dal punto di vista economico da richiedere la chiusura, per l'appunto quelle sulla Cina, Pechino e Shanghai. Adesso ci si torna. Vorrei un tuo parere, secondo te ci si torna bene nel modo giusto? Il nostro interlocutore da Shanghai, Saro Capozzo, diceva: guardate, se ci tornate, se ci tornano, che lo facciano nel modo corretto, ovvero con molti voli, con gli aerei giusti, con le capienze necessarie, anche con una politica economica dei prezzi che sia quella corretta. Si può intuire qualcosa in questa direzione? Ma per ora gli annunci sono ancora sulle generali, e è indicata anche la possibilità di un ritorno in Cina nelle 18 destinazioni indicate nell'ultima versione del piano. Si tratta però, ad esempio, io non ho visto ancora il quando questo avverrà, quindi non so se avverrà solo tra qualche anno e non nel primo anno, il 2009. Uh-huh. E neanche le frequenze, perché questo è un punto importante, perché spesso, certo, i voli verso queste destinazioni erano giorni alterni, e sappiamo che questo è un servizio scadente e che portava all'impoverimento quindi dell'offerta e a far preferire ai passeggeri altri vettori, quindi obbligandoli poi a fare scalo ora a Francoforte, ora a Parigi, Londra, secondo, quindi o Medio Oriente. E io ancora non ho visto un'indicazione precisa, e credo che non sia ancora chiaro neppure ai vertici della CAI. Il piano Fenice comunque indica nei quattro principali paesi europei quali sono i volumi di passeggeri sufficienti per giustificare una rotta con un volo diretto da quel paese, ad esempio, ad altre destinazioni. E nello spaccato delle rotte italiane, ad esempio, la Cina, le destinazioni cinesi sono indicate sotto il livello, che mi pare sia intorno ai 400.000 passeggeri annui. Ora, questi calcoli risentono anche poi del fatto storico, cioè se la gente non vola perché preferisce fare spola da un'altra parte, è difficile capire quanti sono i passeggeri. Comunque il vedere questa indicazione che non contiene, ad esempio, queste rotte come sufficienti per volume di traffico, per giustificare i voli diretti, mi fa venire qualche dubbio. Fatto che verranno effettivamente attivate, certo. Gianni, aspetta un attimo, rimettiamoci in contatto con Saro Capozzoli da Shanghai, che proprio di questo ci stava parlando. Hai sentito, Saro, la questione? C'è una questione di se è un business plan, darebbe forse un esito negativo. Come commenti questa cosa? No, è un business plan. Allora, mi chiedo come mai le altre linee aeree si contendono gli slot e aumentano i voli invece che diminuirli, no? Cioè litigano addirittura per entrare. Litigano addirittura, ma la KLM è passata da 3 a 6, l'Air France anch'essa ha più voli al giorno. Il discorso è che anche l'offerta che c'è a bordo, se noi ci ostinavamo a offrire ai cinesi il prosciutto crudo, scusate, è buonissimo, ma il prosciutto crudo ai cinesi non piace molto, certo, spesso, o il formaggio parmigiano. La Lufthansa, scusate se cito un nome, quando viaggi in economia, anche in business, hai la scelta fra un menù cinese e un menù occidentale, tant'è vero che io quando, ed è sempre pieno, diciamo il 70% di quello che tu vedi, cioè i posti occupati sono cinesi, hanno personale viaggiante che parla cinese, sempre, quindi le indicazioni scritte in cinese, ecco, c'è anche un'attenzione, noi portiamo la nostra italianità nel paese sbagliato, cioè il cinese è molto conservatore, vuol mangiare cinese. A me infatti quando scelgo un posto cerco di scegliere sempre più avanti, perché se lo scelgo troppo in basso la mattina, quando mi sveglio, mi offrono gli spaghetti fritti perché hanno finito le omelette, per dire, no? E quindi far colazione con gli spaghetti fritti non è una cosa il massimo, però questo indica che cosa? Che è una linea aerea che, capendo il paese, si è cinesizzata e piace molto ai cinesi, certo, con prezzi non tanto, diciamo, elevati, competitivi, e un'altra cosa, i film cinesi, cosa che questo questo non mi piace un po' di meno, vedi che c'è un film occidentale e un film cinese, cinese nel senso, ecco, quindi c'è una fetta che è molto, un marketing molto mirato e ha successo. Certamente bisogna fare business plan tenendo conto degli italiani, ma non solo degli italiani, noi dobbiamo puntare sui cinesi. I cinesi viaggiano sempre di più e viaggeranno sempre di più in futuro. Sentiamo Dragoni, se ha qualcosa da aggiungere, da commentare su queste considerazioni che mi sembrano molto operative, non so come dire. Sì, come trovo corrette, forse potrebbe essere tenuto in considerazione per i responsabili anche della Nuova Italia per dare dei consigli di marketing. Certo. No, effettivamente sono considerazioni pertinenti e probabilmente troppo spesso trascurate. Comunque l'indicazione Shanghai c'è, io dico, nessuno ha ancora detto quando, con quale aereo, eccetera. La nuova società all'Italia più Air One parte con una flotta che sono i 15 aerei a lungo raggio passeggeri dell'Alitalia, più il piano indica sulla carta due aerei Airbus 330 che attualmente sono impiegati in leasing da Air One per fare rotte da Malpensa verso il Nord America, rotte che credo però siano molto poco frequentate, con un basso coefficiente di trasporto passeggeri. Allora effettivamente è una flotta ancora limitata per poter immaginare un potenziamento. È previsto uno sviluppo. Io ho visto molte volte dei piani, ad esempio sempre quelli dell'Italia, che indicavano degli sviluppi, dei miglioramenti che poi non ci sono stati. Qui si riparte in qualche modo da capo con un'operazione per certi aspetti controversa sul piano finanziario, per i costi che lascia appunto sulla vecchia Alitalia, gli azionisti e i contribuenti. Comunque diciamo si parte con un manico nuovo. Se ci sarà soprattutto un partner estero robusto che non preferisca attrarre i passeggeri verso l'Oriente per il suo aeroporto e farli passare direttamente da un volo da Malpensa o da Fiumicino, secondo quello che è la domanda di traffico, allora vedremo se questo potrà avvenire. Certamente bisogna affidarsi un po' al partner estero affinché ci apra anche un po' la strada. Per i voli intercontinentali sarà determinante, certo, il partner, certo, estero sicuramente. Grazie, ringraziamo Gianni Dragoni, sappiamo peraltro molto impegnato per la sua partecipazione. Sara, voglio chiudere con te. Non mi sembra, anche da parte del nostro altro ospite, il giornalista Sole 24 Ore, che ci sia insomma proprio un piano così clamorosamente entusiasmante, no, al termine di questa peraltro estenuante trattativa. Così si sono messi insieme i cocci. Sì, preferirei che non andassero in Cina se si parte così con ancora una tratta monca, cioè con pochi voli e nella maniera sbagliata, perché si rischia poi di fare l'ennesimo ritiro dopo un paio d'anni. Cioè, meglio che la struttura sia confermata, ci sono gli aerei adatti, perché quello che non piace ai cinesi è la discontinuità. Cioè, il fatto che tornare a richiedere gli slot ogni volta non è una cosa così semplice, cioè, quindi è meglio non iniziare, io lo dico anche contro il mio interesse che mi interesserebbe volare direttamente, ma iniziare bene con gli aerei giusti e con la politica giusta, cioè, perché sennò veramente diventa un altro buco nell'acqua, si rischia che la tratta non diventi remunerativa, no? Certo. Questo è un suggerimento, oppure provare a toccare delle città che non sono toccate ma potrebbero interessare molti cinesi, ad esempio perché no un Milano Guangzhou, la maggior parte dei cinesi che vivono in Italia vengono dal Zhejiang, dal Guangzhou. Senti, no? aspetta, ti interrompo Saro per chiederti una cosa che riguarda proprio il tuo mestiere e le cose che ci stai dicendo adesso, sì, che a me hanno un sapore così iniziatico tale da porti questa domanda, ma tu che di mestiere fai il consulente per gli operatori italiani in Cina, sì, hai una idea, potresti raccontarci, sai qualcosa su per esempio chi siano i consulenti che hanno lavorato per l'Italia durante il non riuscitissimo sbarco in Cina, eventualmente come funzionerebbe un nuovo tentativo, cioè dove raccolgono le informazioni, il know-how per condurre un'operazione di questo genere, ne abbiamo un'idea? Ma io ho letto sul un giornale, c'è una rivista italiana qualche mese fa, Il Mondo, che recentemente sono stati spesi qualcosa come 47 milioni di euro in consulenze, ecco, con McKinsey, per dire, no? Ecco, è una società società di consulenza, una delle migliori, anzi la migliore, però se non so quale abbia, quale sia proprio la sua, diciamo, il risultato a cui questi soldi hanno portato, forse non so che cosa hanno, a cosa hanno portato. Secondo me loro dovrebbero scegliere in Cina degli operatori, ma anche cinesi, perché no? Non dico di scegliere una società come la mia assolutamente, ma un operatore cinese, ce ne sono tanti del settore, per farsi guidare. Che cosa ci vuole per poter avere successo in Cina? Ecco, questo è un consiglio, perché si continua ad andare sui nomi blasonati, i nomi importanti che poi alla fine costano tantissimo e non so quanti risultati operativi portano. Le presentazioni PowerPoint da far vedere sul muro al consiglio di amministrazione sono molto belle, ma certo. A me interessa, io penso che alla gente interessano i risultati e non quello che così si dice. Grazie a Saro Capozzoli, vediamo come prosegue questa avventura, così parte con qualche dubbio, soprattutto con questi interrogativi che Saro ci ha posto dal lontano Oriente, no? Per esempio, perché non quella tratta, perché non quegli aerei? Vedremo se ci arriveranno delle risposte. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be alone tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away. See me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Oh, no. Do me wrong, do me right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no, I don't want to be lonely tonight. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Chi l'avrebbe detto che arrivati a un mese dalle elezioni, di queste elezioni sarebbe rimasto in piedi pochissimo, no? Come un antico tempio romano su cui sono passate le ingiurie, non so, del tempo, del tempo atmosferico, delle civiltà che si susseguono. Non c'è rimasto quasi niente di tutte quelle issues che pensavamo che sarebbero state messe sul tavolo elettorale per indurre gli americani a confrontarsi su questioni legate ad esempio all'educazione, legate ad esempio alla razza, legate ad esempio alla religione. Niente di tutto questo, la crisi ha letteralmente travolto le elezioni. Non a caso, se guardate Fox News adesso, c'è un teleschermo diviso in tre parti, in una delle tre parti c'è la Casa Bianca, nella seconda delle tre parti c'è l'interno della la Camera, dove comincia il rovente confronto per l'approvazione del pacchetto che dovrebbe portare questi 700 miliardi di fondi federali a sostenere l'economia americana, e nella terza inquadratura non c'è né Barack Obama né John McCain, ma c'è Wall Street e i listini in caduta libera. Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, parlando da Washington, ha avvertito che il il piano di salvataggio per Wall Street è indispensabile, che forse non risolverà tutti i problemi, ma comunque servirà a stabilizzare l'economia. I problemi continueranno a farsi sentire per un certo tempo, ha detto. Si augura solo che il Congresso si sbrighi a esaminare il pacchetto, a mandarlo avanti, dopo che nella notte tra sabato e domenica è stato trovato un accordo di massima. Tra l'altro, se andate su internet, ad esempio nel sito della CNN, potete scaricare un PDF con il progetto per quello che si metteranno davanti agli occhi i politici di Washington per discutere se approvarlo o meno. E la campagna elettorale naturalmente va avanti, perché qui si tratta di fare un presidente a cui dare le chiavi dell'ufficio della Casa Bianca, a cui dare il mandato, la delega di risolvere questo problema, che non ha certo tempi brevi, e anche una delega fiduciaria. Bisogna dargli il mandato per conto di ciascuna famiglia americana di portare l'America fuori da queste bruttissime acque. Il dibattito di venerdì, al di là di quello che a freddo così commentatori, siti, giornali, magazine provano a ipotizzare, non mi sembra abbia espresso un verdetto deciso in un senso o nell'altro. Sono state schermaglie che dovevano andare in scena, perché questo richiedeva il protocollo elettorale, su un argomento come la politica estera, che in questo momento è lontanissima dalla fantasia degli elettori americani, e in parte su, naturalmente, il dramma economico, su cui entrambi i candidati, al di là di assumere posizioni così di richiamo etico, promesse di cambiamento nel senso della moralizzazione, però non hanno espresso principi di particolare forza, tanto più dopo che McCain, insomma, era reduce da una scorribanda a Washington in cui molto aveva promesso e poco aveva realizzato. Obama la sua visita a Washington l'aveva fatta senza promettere molto e senza a sua volta realizzare moltissimo. In un certo senso si era un po' spostato, no, il riflettore dal centro della scena, dove dovevano stare McCain e Obama. Hanno dovuto riguadagnarlo, ci sono riusciti soltanto in parte. Poi, all'indomani di tutto ciò, hanno naturalmente ricominciato a menarsi bastonate l'uno in testa all'altro, come fanno un po' anche le marionette, no, per fare rumore, riprendersi il centro della scena, far vedere che sono bene o male i protagonisti, ancora loro, mica Wall Street. Ma non so quanto gli americani siano disposti a credergli. Sentite lo spot di John McCain, ad esempio. I'm John McCain and I approve this message. Barack Obama's answers at the first presidential debate. Do you have something directly to say, Senator Obama, to Senator McCain about what he just said? Well, I think Senator McCain's absolutely right that we need more responsibility. Lo spot di McCain fa capire che Barack Obama ha dato sempre ragione a McCain. È vero o no? Però lo spot è piuttosto efficace e, secondo loro, lui non è pronto per niente. Naturalmente quelli di Barack Obama hanno risposto per le rime, sentite. Number of minutes in debate, 90. Number of times John McCain mentioned the middle class, 0. Numero di minuti del dibattito, 90. Numero delle volte che John McCain ha nominato la classe media, 0. John McCain se ne frega della classe media, insomma, un'altra semplificazione. Non mi sembra che gli spin doctor di una parte e dell'altra per produrre questi spot elettorali si siano impegnati più di tanto, insomma, così una bottarella agli avversari. Il problema è che mi sembra abbiano un po' perso il tocco, dal momento in cui l'elezione americana coincide, si è sovrapposta completamente alla crisi, anche loro non sanno bene in che direzione andare. Ma sentiamo che ne pensa a riguardo un amico di Jefferson Ming, che si chiama Andrea Mancia, fa il vice direttore di Liberal e si interessa praticamente a tempo pieno, immagino, di queste storie americane. Avrà visto il dibattito, si sarà fatto un'idea. Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Che ne dici? Sono d'accordo con te, fondamentalmente. Sbandano un po', no? Che dici? Sì, mi sembra che nessuna delle due campagne sappia esattamente come comportarsi in un momento del genere. Più forse quella di McCain mi sembra sbandata in questo momento, anche perché nel Congresso i repubblicani sul piano di salvataggio di Paulson sono divisi, insomma. E quindi McCain, che ha necessariamente bisogno del forte supporto del partito a novembre, non sa bene con che parte schierarsi. Non mi sembra che Obama abbia le idee chiare anche lui. La situazione è estremamente fluida, secondo me. Quando si parla di economia in genere sono favoriti democratici. Se c'è una costante nei sondaggi sulla pubblica opinione degli ultimi anni è che i democratici mantengono un forte vantaggio sui temi economici rispetto ai repubblicani. Andrea, io ti vorrei porre questa domanda, perché è un po' la cosa a cui sto cercando di ragionare in queste ore. Ma non è un po' imbarazzante, preoccupante, strano, destabilizzante rendersi conto che in un momento in cui una nazione, insomma, della portata dell'America attraversa la sua crisi più grave da chissà quanti anni a questa parte, i due uomini ormai rimasti in per contendersi il comando diretto, insomma, del paese nei prossimi 4 anni sembrino uno per l'altro un po' sfocati, animati più che altro da prese di posizione d'occasione, appunto un po' elettorali, ma che abbiano davvero il timone della questione e la chiarezza e la progettualità, mi sembra difficile dirlo. E tutto questo, insomma, crea una situazione, come dire, un tantino preoccupante. Che ne dici? Sì, io non sarei così preoccupato perché, diciamo, per la mia impostazione ideologica, almeno i governanti si occupano di economia e meglio l'economia sta, in linea di massima. Però effettivamente se ci aspettiamo da uno dei due candidati alla presidenza degli Stati Uniti un'idea chiara, una visione chiara su quale possa essere il modo con cui il governo risolve questa crisi, stiamo cercando dalla parte sbagliata, secondo me. McCain, per sua stessa ammissione, l'economia, diciamo, è il suo tallone d'Achille, il suo punto più debole. Se ne interessa poco, se ne è sempre interessato poco e lo ammette da tempo. E forse anche questo sta alla base del suo calo nei sondaggi ultimamente. Obama, dal lato suo, non mi sembra neanche possedere una visione particolarmente intrigante della politica economica oggi come oggi. Però quella che si prepara a lasciare in eredità Bush è un'America in cui, insomma, lo sappiamo tutti, il governo improvvisamente sta provando, nel modo che vediamo in queste ore, a riassumere, no, un ruolo di una centralità quasi inedita, insomma, per i loro registri. Diciamo, è meno statalista di quello che sembra a prima vista il piano di Paulson, a dir la verità. È anche vero che quando, diciamo, si mettono 700 miliardi di dollari in mano fondamentalmente al governo, è ovvio che il governo assume un ruolo fondamentale. È proprio questa la base, diciamo, che l'ala più liberista del Partito Repubblicano su cui sta battendo per esprimere la propria contrarietà al piano, insomma, quantomeno per cercare di mitigarne gli effetti più direttamente statalisti, fra molte virgolette. Confrontiamo le informazioni dell'ultima ora, pare in addirittura d'arrivo, no? L'approvazione almeno in questa prima tranche. Che informazioni hai tu? Sì, sembra che almeno, appunto, i primi 100-150 miliardi siano andati, per così dire. Si è trovato un compromesso, non entro nelle tecnicalità, anche perché ne capisco non tantissimo, certo. Neppure io, però oggettivamente sembra che poi alla fine Paulson sia abbastanza andato incontro a quelle che erano le richieste dei congressmen repubblicani più ostili al piano, anche perché, parliamoci chiaramente, io l'ultimo sondaggio che ho visto dagli americani quasi del tutto contrari al piano di Paulson. I democratici sarebbero di per sé favorevoli, ma non vogliono, diciamo, assumere sulle proprie spalle l'intera responsabilità della cosa, perché, certo, potrebbe avere, appunto, un impatto negativo per la campagna elettorale. Dall'altro lato, il Partito Repubblicano, ci sono i fedeli di Bush e ci sono, diciamo, i fedeli di Gingrich, che è quello, certo, tra i capi del partito che si è speso. È l'unico che si è speso pesantemente contro. Sì, si è speso pesantemente, devo dire, è l'unico che almeno in queste ore può avere una visione, diciamo, distorta, diciamo. Si può essere o non essere d'accordo, ma è l'unico che in questo momento ha quantomeno una visione per i prossimi 20 anni della politica americana. Se consideriamo che Gingrich è praticamente tagliato fuori da, certo, da giochi di potere, giochi politici per almeno per i prossimi 10 anni. Lo scenario è un po' surreale, certo, certo. Sì, è un po' surreale. Tanto più se si pensa che alla fine quello che invece, diciamo, il pandan politico, il pandan elettorale dell'America di queste settimane, di questa settimana, ciò che ha da offrire è questo dibattito tra i vice, tra Biden e Sarah Palin, che per ora almeno sembra appartenere più così all'universo mondano o dei gossip che della politica vera e propria, ma staremo a vedere. Di questo magari ce ne occupiamo più tardi o nei giorni successivi. Step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we scrape. All boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, been working in the town. Been in trouble since I set my suitcase down. Ain't got nothing for you, had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky's full of fire, the pain is pouring down. There's nothing you can sell me, I'll see you around. My powers of expression and thoughts so sublime, they'll never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. Prima pagina. Dunque, quello di prima era Bob Dylan, in uscita un nuovo album che si chiama Mississippi. Sono sempre questi bootleg series, queste vecchie cose rare di Dylan che stanno riemergendo. Poi aspettiamo naturalmente che arrivino anche quelle nuove, che sembrano essere, per fortuna sua e soprattutto nostra, altrettanto belle. Poi voglio dire, caro Emiliano, alzare qui insomma le giuste lodi al nome di Saro Capozzoli, che è stato molto apprezzato dagli ascoltatori, anche molta solidarietà. Per esempio c'è chi dice, Davide a Bergamo: vorrei chiedere a Saro come ha il fegato dopo 160 voli in Cina con annesso pasto. Oppure c'è chi dice che le consulenze dall'Italia venivano fatte dai politici o dagli amici dei politici. Queste sono vecchie ipotesi, maligne, ma forse non troppo. Nei voli cinesi verso l'Italia non si può mangiare italiano, osserva Pietro da Milano. E poi chiedi a Saro se con che compagnia vola. Lui ce lo sta facendo capire, anche perché non può fare altrimenti. Non può fare pubblicità, però insomma, con chi sta parlando. Certamente non si tratta della nostra compagnia di bandiera, forse fra un anno o due, come ha ipotizzato prudentemente Dragoni. Comunque, come sempre, quando si parla di Alitalia, l'effetto nei messaggi è dirompente, ne arrivano a valanga. Allora, veniamo invece alle notizie che giungono dalla Cina. Restiamo sulla vicenda torbida del latte contaminato e apriamo con una notizia che è arrivata da pochissimo, che in realtà non credo potrebbe stupire qualcuno, perché un gruppo umanitario cinese, esattamente il Chinese Human Rights Defender, ha rivelato oggi una serie di episodi nei quali notizie appunto legate alla contaminazione del latte in Cina per bambini sarebbero state bloccate dalle autorità cinesi per evitare problemi di immagine, soprattutto e scandali in indesiderati durante le Olimpiadi. Quindi di fatto le notizie erano già pronte ad essere pubblicate in luglio, ma la censura ne ha rimandato la diffusione fino a settembre, quando poi lo scandalo è esploso grazie non tanto allo zelo dei cinesi, ma alle denunce della Fonterra, che è l'impresa neozelandese che era collegata ad una serie di imprese cinesi, che ha lanciato per prima l'allarme. In particolare si fa il nome del direttore del quotidiano Southern Weekend, al quale è stato impedito espressamente di pubblicare ancora a luglio, già a luglio, un'inchiesta sull'adulterazione del latte, con la motivazione che l'armonia sociale, il solito tema che ritorna quando c'è un problema di diffusione, di fuga di notizie, non doveva essere turbata, appunto l'armonia generale, in vista delle Olimpiadi. Nel frattempo il problema, la questione si allarga sempre di più. Oggi, anzi ieri, il ministro della salute indonesiano ha affermato che addirittura tracce di melamina sono state scoperte in 12 diverse tipologie di cibo che arrivano dalla Cina, sono confezionate in Cina, compresi biscotti, canditi e bevande. Il governo indonesiano è partito subito al contrattacco, è corso ai ripari e ha temporaneamente proibito le importazioni di prodotti del latte che arrivano dalla Cina. Poi c'è il governo di Hong Kong che ha annunciato che il colosso britannico di cioccolata Cadbury, quindi parliamo veramente di un marchio prestigiosissimo, globale, certo, ha ritirato dal commercio i prodotti confezionati in Cina. In particolare sono 11 prodotti, anche se non è chiaro se i test effettuati su questi prodotti incriminati abbiano o meno rilevato la presenza della melamina. Poi proseguono gli arresti, 22 persone sono finite in manette in Cina, si tratta in particolar modo di titolari di pascoli o fattorie d'allevamento nella provincia dell'Hebei, da dove è partita questa bomba, insomma, non solo di immagine ma anche poi sanitaria, che sta sconvolgendo tutta la Cina. Ci sono poi le prime testimonianze, c'è per esempio un contadino che ha spiegato come il suo latte venisse puntualmente rifiutato dalla Sanlu, che è la più importante azienda cinese coinvolta nello scandalo, perché non riusciva a superare i test di compatibilità proteica, insomma non era considerato sufficientemente proteico. Poi all'improvviso ha scoperto che bastava mescolare nel latte questa polverina chimica, in realtà si tratta della famigerata melamina, ed ecco che i test proteici venivano superati brillantemente dal suo latte, quindi poteva finalmente venderla alla Sanlu. Resta da capire se la Sanlu è correa, insomma è corresponsabile in questa vicenda appunto intricatissima. E dunque, attente latte cinese, e dedichiamoci allo Showtime per chiudere, per qualche notizia che magari vi può rallegrare di più. Per esempio, se siete dei fan del rock, del pop americano, ormai sapete che un appuntamento da non perdere è quello con il Super Bowl, la finale del campionato professionistico di football, perché nell'intervallo ne succedono di tutti i colori. Si cominciò nel 1988, pensate un po', Chubby Checker, l'inventore del twist, fu il primo a esibirsi nel famoso halftime, nel famoso intervallo della partita. Poi sono arrivati tutti, c'è stato Michael Jackson nel 93, nel 2004 ci fu sua sorella Janet con il famoso incidente del reggipetto, il più grande momento della Super Bowl in assoluto, Rolling Stone, U2, Paul McCartney. È stato annunciato chi suonerà il 1 febbraio, data del Super Bowl 2009, al Raymond James Stadium di Tampa, Florida, dove si terrà la finale. Credo che anche i fans italiani potranno essere soddisfatti, perché arriva niente meno che The Boss, Bruce Springsteen. Dica. Se non sbaglio, la prima puntata di Jefferson Ming nel lontanissimo ormai febbraio 2007 venne battezzata proprio dal commento successivo al Super Bowl. Ah, è vero, perché a tempo era il 5 febbraio ed era tempo di Super Bowl, giusto? E invece, a proposito sempre di Showtime, tutta l'attenzione dei reporter politici, come abbiamo detto, si è spostata a questo punto sul dibattito tra i vice, tra Joe Biden e Sarah Palin. Si terrà il 2 ottobre, quindi tra pochissimi giorni, e Sarah Palin non traversa in questo momento un buon momento di rapporti con i media americani, semmai ne ha attraversato uno dopo gli esordi, dopo la sorpresa degli esordi. Adesso chi ci sta mettendo il mattone più pesante è il programma comico Saturday Night Live Show, che ha una imitatrice molto famosa, si chiama Tina Fey, che gli sta facendo praticamente barba e capelli alla povera Sara, con una imitazione terribile, terrificante, soprattutto perché, e questo è l'oggetto della notizia, utilizza le vere dichiarazioni di Sarah Palin, che ha fatto una una intervista che gli stessi strateghi repubblicani hanno definito un disastro pazzesco, con Katie Couric, la bionda e famosa anchorman della CBS, ha dato risposte un po' a casaccio, e Tina Fey ha fatto tutto il suo numero usando le vere risposte di Sarah Palin, ha fatto ridere l'America. Ci si può solo aspettare che Joe Biden, che è uno che sbaglia i presidenti l'uno con l'altro, faccia peggio. Ma se non sbaglio, McKinley ha imposto il ritiro come le squadre quando perdono una partita alla Palin, no? Per prepararsi al meglio a questo dibattito. È difficile per entrambi, secondo me, recuperare, fare un corso accelerato di storia americana. Bisognerà raccomandarsi al buon cuore di chi li intervisterà. Vedo gente che strilla lì sui monitor. La borsa americana non sta attraversando proprio un momentone, ma tra poco arriva chi ne sa più di noi e chi ve ne parla con maggiore conoscenza. Questo è Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, al mio fianco Emiliano Enrico, in regia Duca Alessandro Chiappini a Roma e a Milano, in questo momento mi sfugge Filippo Aureggi, mi dispiace, è caduta una trappola nella quale sono caduto biecamente. La ghigliottina, hai perso la metà della Puglia, come si dice. Va bene, l'indirizzo invece è Jefferson Ming, tradio24.it, lo sentite in replica questa puntata del programma stasera alle 9, diretta attorno alle 4, con tutte le notizie da una parte e dall'altra del mondo, come sempre qui da Radio 24, domani.